E qui incomincia il tuo desiderio, che è il delirio del mio desiderio. La musica è il desiderio dei desideri.